Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Esiste un romanzo come il dottor Zhivago di Boris Pasternak, famoso capolavoro in tutto il mondo, lo dobbiamo ad un editore italiano, Gian Giacomo Feltrinelli, che lo pubblicò per primo nel 1957. La pubblicazione di questo romanzo è molto affascinante, avventurosa e rocambolesca e in parte viene raccontata nel romanzo Non siamo mai stati qui di Lara Prescott, pubblicato da Dea Planeta. In questo romanzo alcune cose sono reali, altre sono, diciamo, portate dalla fantasia. Lara, partiamo subito dall'idea. Perché hai deciso di raccontare questa storia che sicuramente è affascinante, ma cos'è che ti ha dato il là per partire? So, I go way back because my name is Lara and I was named after the heroine in Dr. Zhivago. Sono stata chiamata Lara come l'eroina del dottor Zhivago, quindi è una vita che amo questo romanzo, ma l'idea per scrivere il mio romanzo è partita nel 2014 quando ho avuto accesso ai documenti desecretati della CIA che parlavano proprio di questa missione. La missione era quella di stampare e di far tornare clandestinamente il romanzo Dottor Zhivago nell'Unione Sovietica, al di là della cortina di ferro. Questo romanzo era stato bandito, vietato, nessuno nell'Unione Sovietica poteva leggere, e gli eventi storici sono addirittura ben più strani della fantasia, dell'idea romanzata che uno può legare al romanzo stesso. L'idea quindi, leggendo i documenti della CIA, è venuta proprio dal cercare di inserire in tutte quelle parti che erano state oscurate, censurate dai documenti della CIA, con elementi di finzione romanzati da me. So I thought fiction could be a great way to fill in those blanks. E veniamo ai personaggi principali di questo romanzo, che sono Olga, sostanzialmente l'amante, anche la musa ispiratrice di Boris Pasternak, e Irina, che invece inizialmente è una dattilografa che viene assunta dal Dipartimento di Stato americano, insomma sostanzialmente poi dalla CIA, e che poi da semplice segretaria diventa una vera e propria spia. Partiamo da Olga. Olga è un personaggio realmente esistito. Tu racconti di quando fu arrestata e fu messa sostanzialmente in carcere, volevano costringerla a svelare che cosa stesse scrivendo Pasternak. Poi fu addirittura condannata a 5 anni in un gulag, ne passò sostanzialmente solo 3. Ecco, come hai ricostruito questa parte del romanzo e la vita di Olga? So I first started writing the novel from the gaze of the typing pool and the CIA. Sono partita a scrivere il mio romanzo con lo sguardo focalizzato su questo reparto di dattilografe che lavorano all'interno dell'agenzia. Però io mi sono ben presto resa conto che non avrei potuto scrivere un libro, un romanzo che parlava del dottor Zhivago senza prendere in considerazione la vita e i capolavori scritti da Boris Pasternak, e quindi ho cominciato a sviluppare anche questo lato del libro. Mentre cercavo appunto di elaborare su di lui, ho capito che il mio sguardo aveva bisogno di andare ancora oltre, e ho visto che il personaggio più importante per descrivere tutta questa operazione era Olga, la sua musa, la sua amante, la persona che è stata accanto a Boris Pasternak per tutta la sua vita. Tra l'altro io ho letto l'autobiografia scritta da Olga Ivanskaya, Prigioniero del Tempo, e ho visto e ho capito quanto aveva sofferto in corso di tutta la sua vita per proteggere Pasternak e la sua opera, il suo capolavoro, il Dottor Zhivago. Quindi ho capito che nonostante si possa pensare che lo sguardo prioritario sia quello da dedicare al genio, al grande autore, dovevo seguire Olga e la sua vita. E questo vale anche per il mondo occidentale. Ho scelto di seguire lo sguardo delle donne che lavoravano all'interno dell'agenzia e ho voluto mettere in rilievo tutto quello che è stato fatto per far sì che la missione avesse successo. Principalmente quindi ho un grandissimo rispetto e riverenza per tutto quello che queste donne hanno fatto per questo romanzo. In awe of her courage and her bravery and things she did for love and her love of Boris. Olga, oltre a essere, diciamo, compagna di vita di Boris Pasternak, era poi diventata anche la sua agente, firmava i contratti, cercava di organizzare gli incontri appunto con gli editori. Nel caso di Irina, invece, si tratta di un personaggio di fantasia. Irina is a fictional character. As I was saying, the CIA documents had been redacted of the actual officers involved in the mission for the most part. Irina è un personaggio che nasce dalla mia fantasia e, come vi ho detto, l'idea del romanzo mi viene proprio dal aver letto questi documenti desecretati della CIA, dove molti nomi di coloro che erano coinvolti in questa missione erano stati omessi e censurati. E quindi poco per volta mi sono focalizzata proprio su questi elementi e ho pensato a tutte le donne, queste prime spie che hanno lavorato all'interno dell'agenzia e che in maniera del tutto inaspettata potevano portare dei messaggi o dei pacchetti in maniera segreta e clandestina a una donna seduta sull'autobus che inaspettatamente appunto fornisce un pacchetto, una donna meravigliosa e bellissima, ma che era una spia e quindi svolgeva questo ruolo in maniera davvero segreta. Il personaggio quindi di Irina si basava proprio su questo gruppo di donne, di spie, che ha lavorato all'interno dell'agenzia e poi io ho creato tutto il resto. In questa storia abbiamo già detto che c'è molta Italia, a iniziare da Gian Giacomo Feltrinelli che per primo pubblicò il dottor Zhivago, ma c'è anche un'altra parte d'Italia che è rappresentata da Sergio D'Angelo, che tu appunto citi nel romanzo, era appunto un italiano che sostanzialmente traduceva i comunicati per la versione italiana di Radio Mosca ed era un aspirante agente letterario. Fu lui che sostanzialmente portò il manoscritto in Italia, perché Feltrinelli, tu anche lo ricordi, gli disse: portami il nuovo capolavoro della letteratura russa, e lui appunto incontrò Pasternak. Che cosa avvenne in quell'incontro e in che modo D'Angelo riuscì a portare questo manoscritto in Italia? So during my research, I learned about Sergio D'Angelo. He had self-published his account of his role in the Zhivago affair. Nel corso delle ricerche che ho svolto, ho avuto modo anche di leggere le memorie pubblicate da Sergio D'Angelo. Lui aveva sentito in un programma di Radio Mosca che appunto Boris Pasternak era impegnato nella redazione, nella stesura del suo primo romanzo, il dottor Zhivago, e quindi nel momento in cui sente questa notizia, poiché era stato anche incaricato dalla casa editrice milanese di andare alla ricerca di talenti internazionali, e a quell'epoca non sapeva ancora che il dottor Zhivago sarebbe stato vietato e bandito, non sarebbe mai stato pubblicato all'interno dell'Unione Sovietica, si reca appunto a Pala del Chino, va a trovare il grande poeta romanziere e gli dice: fammi avere questo manoscritto. E nel momento in cui Boris Pasternak glielo consegna, gli dice: bene, ti invito alla mia esecuzione. Dunque si incontra Sergio D'Angelo con Gian Giacomo Feltrinelli in un hotel a Berlino Ovest, parlano della prossima pubblicazione del romanzo, e a quel punto vengono a scoprire che il romanzo non sarebbe mai stato pubblicato nell'Unione Sovietica. Tant'è che Gian Giacomo Feltrinelli riceve svariate pressioni, minacce affinché il manoscritto venisse restituito e non venisse pubblicato, ma con grande temperamento e resistenza Gian Giacomo Feltrinelli rispose di no, perché questo sarebbe stato un grande regalo da fare al mondo intero, ed è stato così che appunto il mondo ha avuto la gioia di poter scoprire questo romanzo. His role in this mission was such a joy to discover. E infatti all'epoca Feltrinelli ebbe molte frizioni anche con il Partito Comunista Italiano, appunto per la pubblicazione di questo romanzo. Il tuo romanzo invece si concentra anche sull'aspetto americano, quindi sul ruolo della CIA. Perché per la CIA nell'epoca della Guerra Fredda era così importante entrare in possesso di questo romanzo anche dopo che fu pubblicato in Italia, quindi era già a disposizione insomma dei lettori? So while Dr. Zhivago became this international sensation thanks to Feltrinelli, the CIA took this as an opportunity. Mentre il dottor Zhivago veniva reso disponibile al mondo intero, era diventato un vero e proprio successo a livello internazionale grazie appunto al coraggio di Gian Giacomo Feltrinelli, questo romanzo non era stato reso disponibile ai lettori dell'Unione Sovietica, e la CIA ha pensato di cogliere proprio questa opportunità per sfruttare il fatto che questo primo e unico romanzo scritto da questo grande maestro, un autore di fama importantissima all'interno dell'Unione Sovietica, non sarebbe stato possibile leggerlo nell'Unione Sovietica stessa, e hanno pensato di cogliere questa opportunità per contrabbandare, far ritornare clandestinamente il romanzo al di là della cortina di ferro, e dimostrare quindi ai cittadini russi sovietici che questo grande capolavoro veniva loro celato, nascosto, vietato, e come veniva vietato questo capolavoro, venivano vietate loro anche tante altre libertà, non solo quella di leggere il romanzo, ma ben altre cose. E questa era un'operazione che appunto la CIA ha portato avanti, si chiamava The Long Game, proprio per cercare di modificare, di cambiare la mente e i sentimenti delle persone, perché credevano proprio che i libri avrebbero potuto cambiare il mondo. And changing people's hearts and minds, and it could start with a book because they believed books could change the world. In che cosa consiste, secondo te, la forza di un romanzo come il Dottor Zhivago? I think people can get different things from Dr. Zhivago, which is the strength of many novels. La lettura del romanzo Dottor Zhivago fornisce tanti diversi punti di vista, ma la forza che rappresenta il Dottor Zhivago è che coinvolge tutta una serie di aspetti che possono essere trovati in tanti libri diversi, e qui sono concentrati in un unico romanzo. È una storia d'amore, parla di quelle che sono le sensazioni, le opinioni del vissuto dei personaggi nel corso delle conseguenze della rivoluzione di ottobre, parla di quelle che sono le opinioni dei personaggi stessi, ed è proprio questo che è stato ritenuto sovversivo da parte dei censori dell'Unione Sovietica, proprio il fatto che ognuno avesse il diritto di sentire e provare opinioni diverse rispetto alla massa, rispetto alla collettività, era ciò che veniva considerato un pericolo e che l'Unione Sovietica non voleva permettere, cioè il diritto alla propria libertà di pensiero, alla libertà individuale di pensiero. E quindi era un po' come un ammonire i suoi lettori di quella che sarebbe stata la china che avrebbero dovuto perseguire nel corso della loro esistenza. Quindi il punto di forza del romanzo è proprio questo, il diritto alla libertà di pensiero. Tante cose diverse, il diritto a vivere e ad amare, proprio come vogliamo vivere ed amare. E questo è il tema principale che ci fornisce il romanzo. The right to love and live the way one wants is the most important part and theme Zhivago gives to us. E questa era Lara Prescott che ci ha parlato di Non siamo mai stati qui, pubblicato in Italia da Dea Planeta con la traduzione di Chiara Baffa, mentre la traduzione dell'intervista in presa diretta era di Marina Spagnuolo. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Parro con l'occhio che vuole sentire l'amore che tu chi ti fa respirare. Questo romanzo è ambientato a Reggio Calabria. È un romanzo corale, però possiamo dire che ci sono due personaggi femminili più rilevanti rispetto agli altri. C'è Argentina, una quarantenne e una poliziotta che fa parte del gruppo ricerca latitanti ed è specializzata in intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Dall'altro lato c'è invece Nunzia, che è figlia di boss, sorella di boss, moglie di boss dell'Andrangheta. Insomma, lei ha respirato criminalità organizzata da quando è nata. La vita di queste due donne è destinata ad incrociarsi, ma soprattutto la vita di queste due donne è forse destinata a cambiare, perché avvengono dei fatti che incrinano la visione del mondo sia dell'una che dell'altra. Per quanto riguarda Argentina, il momento in cui, lo possiamo dire perché si intuisce dalle prime pagine, in alcune intercettazioni telefoniche capisce che il marito che fa l'avvocato potrebbe essere in qualche modo, a qualche titolo, coinvolto nel giro della criminalità organizzata. E per Nunzia, invece, è la consapevolezza che se continua a restare in quell'ambiente, prima o poi anche i suoi figli, che ovviamente ama in modo smisurato, saranno condannati alla stessa vita. Il libro si intitola La nostra casa felice, l'ha scritto Serena Uccello, pubblicato dalla Giulio Perrone Editore. Serena, ho descritto in questo modo il tuo romanzo perché non è facile dare le coordinate di un romanzo, insomma, che racconta tante cose perché intreccia le vicende personali dei personaggi con i fatti criminali e così via, e le riflessioni, appunto. Da che cosa sei partita? Che cosa ti ha ispirato? L'elemento della contaminazione. Cioè questo romanzo, o meglio l'aspetto più esterno, più evidente del romanzo, che è il contesto criminale, nasce dalla mia conoscenza di quel contesto criminale, conoscenza maturata grazie al lavoro che faccio. Tu fai la giornalista, esatto. Lo diciamo. E a un certo punto però mi sono resa conto che quel tipo di analisi, che era un'analisi legata agli strumenti del nostro lavoro, quindi un'analisi sociale o giudiziaria o economica, era assolutamente imperfetta e parziale, e soprattutto non mi bastava più, e soprattutto non era quello che volevo scoprire, conoscere e quindi raccontare. Cioè, conoscendo quel mondo mi sono resa conto che il racconto che mancava era il racconto della contaminazione delle vite. I tuoi personaggi hanno delle vite molto contaminate, perché Argentina è un poliziotto assolutamente trasparente, veramente con un grande senso della giustizia, e poi si trova accanto un uomo che tanto trasparente forse non è. Invece Nunzia, che appunto respira aria di criminalità fin dalla nascita, forse quella criminalità non le va bene. Sì, ad Argentina succede quello che accade spesso a molte donne, anche a molti uomini, ma forse questa è una caratteristica più femminile, accade di avere la consapevolezza di pensare, di gestire pienamente la propria vita e a un certo punto rendersi conto che in realtà di questa vita lei gestisce ben poco. E per raccontare questo meccanismo, il contesto, il meccanismo narrativo del contesto legato al crimine organizzato è perfetto, perché è evidente, è facile da misurare, è facile da evidenziare sul piano appunto della narrazione, e quindi funzionava benissimo. Ma in realtà a me forse quello che interessava di più era raccontare questa cosa qui, cioè cosa accade quando ti rendi conto che non sei tu a gestire la tua vita. Tu pensi di gestirla, ma in realtà fuori di te ci sono delle forze che la gestiscono più di quello che intuisci tu, e più non di puoi evitare la contaminazione, e non puoi evitarlo. Ecco, scoprire per esempio che il marito potrebbe in qualche modo essere coinvolto nell'andrangheta mette in crisi anche il matrimonio e la concezione che Argentina ha dell'uomo che ha accanto. Esattamente, che anche lì è una contaminazione, diciamo, grigia, nel senso che può essere, ma fino a che punto e in che misura. E questo aspetto, questo grigio era quello che mi colpiva di più, perché è facile raccontare quando tutto è evidente da una parte e dall'altra, ma questo elemento delle sfumature non solo mi interessava di più, ma poi penso che sia quello che ci accade quotidianamente. Qui il contesto è il crimine, ma a me interessava, man mano che il libro ha avuto più fasi, più stesure, eccetera, dare una rarefazione a questo elemento del male e far diventare quel male che è il crimine organizzato un concetto più generale di male, quindi di grigio in senso più lato, più estremo. Insomma, non è solo un romanzo criminale. Effettivamente in questo romanzo c'è sì una vicenda appunto criminale che noi seguiamo, cerchiamo anche di scoprire noi come lettori, però i protagonisti sono le persone, sono i loro modi di ragionare, la loro varia umanità. Sono le relazioni tra le persone, cioè come le relazioni si strutturano, come partono, come si compiono. Ad esempio è dominante in questo romanzo, penso, almeno per me lo è stato nella scrittura, l'ambiente di lavoro di Argentina. Cioè, e non è solo descrivere un ambiente di lavoro, a me interessava capire come quando lavori con delle persone a stretto contatto, in una situazione di tensione, in una situazione di emotività e di ansia, come queste relazioni si strutturano, come vengono, sviluppate, come vengono contaminate da quest'ansia e come alla fine vengono anche forse messe a dura prova e quanto queste relazioni poi cambiano gli individui che partecipano ad esse, ecco. Ecco, Argentina ha una caratteristica dal punto di vista professionale, lei sa sentire i silenzi, cioè quando passa le sue ore ad ascoltare le intercettazioni telefoniche o ambientali, intuisce più da quello che non è detto che da quello che è detto. Esattamente. Questo in realtà è un aspetto narrativo su cui io forse un po' forzato, perché mi interessava dare a lei questa connotazione, perché volevo che fosse evidente la sua capacità di penetrare le vite degli altri e di penetrarle anche nei modi meno ovvi. E però in realtà c'è anche un aspetto proprio di cronaca, un dato reale da cui ho tratto, non dico ispirazione, ma insomma da cui sono partita. Qualche anno fa, quando ci fu la cattura, appunto, l'indagine che portò alla cattura di Bernardo Provenzano, uscirono fuori subito dopo la cattura diversi libri. Uno di questi libri veniva raccontata la storia di una poliziotta che veniva soprannominata La Gatta, e io non so quanto fosse vero, quanto fosse romanzato il racconto della gatta, ma nel racconto della gatta, la gatta è la poliziotta che intuisce il momento in cui la moglie di Provenzano esce di casa, ne perdono le tracce, rientra in casa e scoppia in lacrime. E da quel pianto, dall'idea che fosse accaduto qualcosa a questa donna, perché la moglie di Provenzano esce di casa, ritorna a casa e piange, evidentemente perché ha incontrato il marito. Non dice parole, piange. Lei sente solo il pianto. E il racconto, l'analisi di quel pianto diventa la spinta, investigativa che porterà poi i poliziotti a Marsiglia, scopriranno il tumore di Provenzano, tutto quello che sappiamo. Però era proprio il pianto, e su questo aspetto della decifrazione del pianto ho parlato con diversi poliziotti che mi hanno proprio spiegato come spesso in un'indagine vale più quello che non appare che quello che appare. E veniamo invece al secondo personaggio femminile predominante in questo romanzo, abbiamo detto Nunzia. Tu a un certo punto descrivi così il suo modo di pensare e la sua vita. Lei ha due figli, Miriam e Pietro. Poteva essere che Miriam si faceva la vita che voleva lei, poteva essere che Pietro per la prima volta sarebbe stato il primo maschio della sua famiglia salvato e senza morti. Senza Salvatore, suo marito che è in carcere, tutto poteva essere. Senza Salvatore, ma pure senza Domenico, ossia il fratello, e senza suo padre. Poteva pure essere che anche la sua vita cambiava. Abbiamo detto all'inizio che si incrina un po' la visione del mondo, e per Nunzia sono i figli che fanno cambiare, diciamo, questa sua visione del mondo. Sì, qui c'è un rapporto invertito. Di solito sono le madri o comunque i genitori che portano i figli alla consapevolezza e all'apertura al mondo, alla scoperta della libertà e di quello che, insomma, può essere la vita, no? Qui invece è il contrario, è Miriam madre di Nunzia, perché è Miriam che a un certo punto fa quel percorso di conoscenza che a Nunzia invece è mancato e porta la madre alla scoperta della libertà, perché attraverso, diciamo così, il ribaltamento che intuisce Miriam della vita che hanno loro, che è una vita ribaltata rispetto alla vita degli altri, e Miriam lo capisce per la scuola, lo capisce perché vorrebbe una vita diversa da quella che hanno. Vorrebbe emanciparsi da quel contesto criminale. Sì, vorrebbe emanciparsi, porta sua madre a quest'idea di libertà e grazie allo sguardo di Miriam Nunzia comincia a vedere in un modo diverso. Grazie agli occhi di Miriam Nunzia si rende conto che può avere diritto. Ecco, quello che è rivoluzionario in questa donna è che lei fino a un certo punto pensa di non aver diritto a niente, cioè di non aver diritto a una sua vita, di non avere diritto a una sua libertà, di non avere diritto ad agire e a scegliere anche le cose più banali, come un vestito, come una tenda. C'è una scena in cui ad esempio c'è la suocera che vorrebbe rinnovare le tende di casa di Nunzia, le dice no, ma le mie tende vanno bene, cioè sono piccoli piccoli episodi, piccoli gesti in cui si vede che questa donna non gestisce e non domina nulla di sé e della sua vita, e a un certo punto decide che sì, che deve dominare, deve fare quello che facciamo tutte, cioè o tutti, essere minimamente, come dire, consapevoli di quello che facciamo, e comincia un percorso che ha davvero degli esiti, come dire, che la stessa Nunzia non avrebbe immaginato, è molto forte in certi punti, ma in certi passaggi, non diciamo troppo. Che però sicuramente è un percorso di libertà. Ecco, sicuramente i personaggi femminili di questo romanzo sono quelli che spiccano. Abbiamo detto Argentina, Nunzia, ma c'è anche la figura della madre di Nunzia, che veramente è una donna di una cattiveria e forse anche di una coscienza criminale pazzesca. Sì, è l'unico personaggio senza sfumature. Sì, è proprio cattiva in tutti, a 360 gradi. Sì, Andrea Kerbacher l'ha definita in un pezzo che ha scritto su questo libro una Lady Macbeth moderna e, come dire, inedita per il romanzo, è stato generoso in questo, inedito per il romanzo contemporaneo. E in realtà io non pensavo a quel modello lì, nel senso che è talmente un modello, però in effetti è totalizzante nel male, ma totalizzante perché volevo che sintetizzasse tutto e che fosse definitiva, e che nell'essere definitiva e senza variazioni, senza mutazioni, potesse rendere più evidenti invece le variazioni, le mutazioni e l'evoluzione degli altri personaggi. È un'anima, come dicevo prima, un'anima nera, è un'anima nera ancora di più degli altri personaggi maschili, che sono ancora, sì, di più, vero, ad esempio del marito, del boss, del figlio del boss, insomma di tutti questi boss dell''ndrangheta. Lei è veramente estrema. non ha mezzi termini ed è orribile nel modo in cui ad esempio fa una distinzione tra il figlio maschio e Nunzia. E non lo diciamo. E diciamo che c'è un altro personaggio, personaggio. Però bisogna leggere il libro per scoprirlo. E questo è orribile, perché in questa sua distinzione è innaturale per certi versi, però in realtà forse è il personaggio più reale di questo libro, nel senso che è il personaggio su cui io sono intervenuta meno, su cui la mia mediazione, il mio immaginario ha lavorato meno. Perché è un personaggio reale? È abbastanza reale, diciamo, quantomeno sono pezzi di persone reali. E se pensiamo a questo è veramente sconvolgente. Grazie Serena Uccello, ora in libreria con La nostra casa felice, pubblicato da Giulio Perrone Editore. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Lara Prescott su Non siamo mai stati qui, Serena Uccello su La nostra casa felice. Musiche Lara Steam di Maurice Jarre, colonna sonora del film Il dottor Givago. Nero dei Cora Lira. In regia Carmelo Lauricella.